2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana vi raccontiamo come la tecnologia ci cambia la vita. Questa è la prima puntata della nostra versione estiva, una versione più leggera, più corta. Andiamo in onda tra le 15.30 e le 16 il sabato nel pomeriggio, ma come sempre vi ricordo c'è la versione digitale del nostro programma in versione podcast, il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, tra poco incontreremo Simone Zanardi dal laboratorio di PC Professionale, perché questa settimana parliamo di cloud computing. Nelle ultime puntate abbiamo spesso parlato di alcune novità che riguardano il mondo del cloud computing, e allora questa settimana vogliamo fare un approfondimento, proporvi un approfondimento su questo tema, perché ci sono sicuramente alcune discontinuità tecnologiche che negli ultimi mesi, ma nei prossimi mesi, favoriranno una crescita, uno sviluppo di questi servizi basati sul cloud computing. Simone Zanardi, bentornato a 2024. Ciao Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo proprio dal concetto di cloud computing. Stiamo parlando di una cosa che apparentemente è nuova. In realtà molti, o forse tutti coloro che in qualche modo navigano e utilizzano i più diffusi e popolari servizi su internet, già utilizzano il cloud computing, ma non se ne accorgono, non lo sanno. Ad esempio, la posta elettronica è cloud computing. Assolutamente, chiunque di noi abbia utilizzato un servizio di webmail, quindi di posta che si consulta sul web, di fatto sta già usando un servizio cloud. Anche quando la posta la scarica su Outlook, su un client, di fatto comunque il server dove vengono immagazzinati i dati fino al download è sul cloud. Quindi il servizio è già residente su internet. Un altro esempio è Facebook, diciamo, è di fatto un servizio basato sul cloud, il social network di ultima generazione, la bacheca, le informazioni, tutti i dati che condividiamo con i nostri amici, video, foto, risiedono sul cloud, su internet. Certo, perché noi sul computer non abbiamo quasi nulla. Nel caso ad esempio di Facebook basta un programma per navigare su internet, dopodiché tutti i dati, quello che noi scriviamo, le fotografie, eccetera, eccetera, sono, come si dice oggi, in the cloud, cioè nella nuvola di internet. Potremmo anche non sapere dove si trovano, anzi di fatto noi non lo sappiamo, anche se nel caso che abbiamo citato i tecnici sanno dove si trovano questi dati, anzi lo sanno molto bene. Alcuni definiscono il cloud computing una estensione del nostro hard disk, ma vorrei capire perché oggi parliamo così tanto di cloud computing, cioè che cosa è cambiato negli ultimi tempi? Tante cose, è cambiata tecnologia che è più matura, ma soprattutto è cambiato l'approccio, e due nuove parole che vanno tanto di moda e sono tanto utilizzate oggi dai privati e dalle aziende: la mobilità e la condivisione, per le aziende la collaborazione. Se noi vogliamo accedere ai nostri dati da più dispositivi, e qua sarebbe banale parlare di smartphone, ma è così, da più dispositivi, e vogliamo condividere i nostri dati con i nostri amici, con i nostri colleghi, il cloud capita a fagiolo, nel senso che quando io, torniamo all'esempio di Facebook, carico una mia foto su Facebook, posso vederla o farla vedere ai miei amici, sia che essi la guardino da un computer, quindi in casa, la guardino da un tablet, da uno smartphone, da un computer che non è loro, perché per esempio sono su un internet caffè dall'altra parte dell'oceano, in qualsiasi postazione e da qualsiasi tipo di dispositivo possono accedere alle informazioni. Quindi condivisione, mobilità e collaborazione sono dei driver che hanno spinto il cloud dal punto di vista delle funzionalità. E poi, chiaro, la tecnologia, l'accesso a banda larga che è comunque più performante, anche in mobilità, sono tutte cose che hanno fatto esplodere in questi ultimi anni questo mondo. Alcuni dei servizi che vengono molto utilizzati e sicuramente il cui utilizzo sta crescendo negli ultimi tempi anche da parte dei consumatori finali sono i servizi, usiamo una parola inglese anche in questo caso, ma poi la spieghiamo e la traduciamo, di storage, cioè di archiviazione. Noi eravamo abituati fino a qualche tempo fa, molti di noi ancora oggi, ad archiviare i nostri dati sul computer di casa o negli ultimi tempi su un hard disk esterno, ecco, anche in questo caso questa estensione del nostro computer, della nostra casa, del nostro ecosistema casalingo verso la rete internet si sta esplicitando ad esempio attraverso i servizi di storage. Assolutamente, possiamo fare due nomi, non per fare pubblicità, perché sono i più diffusi, probabilmente sì. Molti dei nostri ascoltatori già li hanno sentiti e utilizzati, sono Dropbox o Mozi, sono due servizi, il primo più basato sulla sincronizzazione, il secondo sul backup. Comunque di fatto cosa fanno? Sono dei servizi che danno dello spazio agli utenti per salvare i propri dati non a casa o in ufficio, ma sul web. Perché un utente dovrebbe farlo? Innanzitutto per i motivi che abbiamo già detto prima: mobilità, accesso ovunque, collaborazione, condivisione. E poi qua perché si innesta anche un sottile ma anche interessante ribaltamento del concetto di sicurezza. Cioè l'utente si sente più sicuro quando sa che i suoi dati sono almeno copiati anche sul web, a patto che siano riservati chiaramente. Perché? Perché l'utente si fida di meno del dispositivo che ha in casa e si fida di più di un provider che presumibilmente ha delle risorse hardware di rango più elevato. Facciamo un esempio: io se ho delle immagini, quindi non sono dati sensibili particolarmente, però ho delle immagini che voglio conservare e ho paura che il mio hard disk abbia dei problemi, se so che ce n'è una copia che mi tiene Google, Microsoft, gente che presuppongo abbia dei server con un buono standard di affidabilità, so che se succede qualcosa al mio dispositivo io non faccio altro che accedere al mio portale e me li riscarico di nuovo. Sì, alcuni di questi servizi sono servizi a pagamento, altri non anche lo sono. Esatto, ci sono anche dei servizi gratuiti, ad esempio Dropbox ha una parte, spesso su internet c'è proprio questa policy, questa politica, cioè ti do un po' gratis e poi se ti piace il servizio o comunque se vuoi un servizio più performante paghi. A questo punto abbiamo citato alcuni esempi di cose che già vengono utilizzate, c'è un nuovo concetto che soprattutto Google sta lanciando, che è piuttosto radicale, non so quanto successo avrà nell'immediato. Comunque esistono dei notebook, dei computer portatili che sfruttano proprio il concetto di cloud computing per diventare più veloci, più leggeri, molto più performanti. Si chiamano Chromebook, sono computer portatili ideati da Google, sviluppati da Samsung in questa prima fase, che di fatto montano un sistema operativo che poi è il navigatore di Google, Chrome. Che cosa cambia in questo caso e perché, diciamo, beneficiano e anzi abbracciano proprio il concetto di cloud computing? Ovviamente questo è un esempio particolarmente interessante. È inutile negare che Google sta puntando tantissimo su questo mondo, su questa tecnologia. I Chromebook, come dicevi tu, che in questa fase iniziale sono prodotti da Samsung e da Acer, cosa sono di fatto? A livello hardware sono né più né meno dei notebook, più simili ai netbook, comunque diciamo dei dispositivi, dei computer portatili. Molto semplici. Esatto, semplici da utilizzare. Montano questo sistema operativo che si chiama Chrome OS e la cosa più sconvolgente, usiamo questo termine, è che quella che dicevi tu, di fatto il sistema operativo Chrome OS è poco più che il browser. Sì. Perché? Perché di fatto tutto quello che facciamo sul computer lo facciamo all'interno del browser, perché lo facciamo sul web. Quindi Google cosa dice? Non solo storage, non solo sincronizzazione, ma anche le applicazioni sono applicazioni sul web. Ed è di fatto una radicalizzazione del concetto delle Google Application, dei Google Docs, che sono già sul mercato da un po', probabilmente molti degli ascoltatori li conoscono. Che cosa sono? Sono di fatto delle versioni di Word, Excel, quindi i software d'ufficio che risiedono online. Io accedo alla mia applicazione, creo i documenti, il documento di testo, il foglio di calcolo, e non sono neanche in quel momento sul mio computer, ma sono già sul web. Quindi sì, quando chiudo il documento, lo riapro in un altro punto, ho il documento esattamente come avevo lasciato. Chrome OS fa questo con tutto il sistema operativo. Sì, questa è proprio la sfida di Google a un concetto diverso che noi abbiamo sempre utilizzato fino ad oggi, cioè dei programmi installati sul computer. Questo è un approccio radicale, perché se non abbiamo la connessione attiva, poco ci facciamo con un computer del genere. Esatto, diciamo che come la stessa Google dice, stiamo parlando di portare il mondo del web, che è quello in cui gli utenti di questa generazione si trovano più a loro agio, su tutto lo spettro del computer, dell'informatica. Anche se poi ci sono dei sistemi su cui non ci dilunghiamo oggi, però diciamo delle tecnologie tra cui l'HTML5, che è una nuova generazione del linguaggio su cui si basa il web, che consentono alle applicazioni di operare anche offline, anche nel momento in cui cade la connessione. Però di fatto, al di là di questo discorso, è comunque un mondo che nasce per essere sempre connesso. Sì. Tanto per dire quanto è forte la tendenza verso questi servizi, verso il cloud, anche Microsoft ha cominciato a offrire da poco un servizio per Office che si chiama Office 365, principalmente pensato per le aziende, per i professionisti, perché è un servizio a pagamento, ma che estende verso il cloud computing tutte le funzionalità di Office. È un po' meno radicale rispetto a quello che fa Google. A proposito di servizi un po' meno radicali, sempre pensando che a volte la connessione non c'è, ad esempio la Apple dice: beh, invece di lasciare tutto in the cloud, mettiamo sicuramente i dati, li salviamo, ma sincronizziamo tutto con i terminali, che siano l'iPhone, che siano un tablet, iPad, eccetera eccetera. Questo è un approccio un po', come dire, un po' più prudente. Certo, Apple ha lanciato questo nuovo servizio del cloud, che di fatto cosa fa? Sincronizza i dati tra i vari dispositivi dell'utente. Quindi di fatto gratuitamente ti dà 5 GB espandibili a pagamento e ti dice: benissimo, tutte le tue informazioni tu le hai comunque sui tuoi dispositivi. Facciamo l'esempio più classico: una persona ha un iPhone, ha l'iPad e ha un computer. Tutti i dati sono residenti sui dispositivi, ma nel contempo l'applicazione e il servizio online sincronizzano questi dati, ne conservano una copia, in modo tale che in ogni momento gli stessi dati sono accessibili nell'ultima versione su tutti i dispositivi di cui usufruiamo. E questo sistema chiaramente si sposa anche col concetto di applicazioni, di apps e di musica che Apple ha lanciato da tempo. Stiamo parlando di cloud computing, quindi delle applicazioni e dei servizi che risiedono su internet e vengono erogati da e grazie alla rete internet. Questa è un'immagine sicuramente molto poetica della cloud, che in inglese significa nuvola, per definire appunto la rete internet come una grande nuvola. È con noi Simone Zanardi. Simone, questa evoluzione verso il cloud è più marcata nel mondo business o in quello consumer? Beh, innanzitutto sempre più difficile distinguere non mondi, ma quanto gli approcci, le tendenze sono sempre più simili tra il mondo del consumer e il mondo del business. Diciamo che il mondo del business può beneficiare del cloud per cose che abbiamo già detto: la mobilità e la collaborazione, che oltre a servire ai privati servono tanto anche le aziende. E poi per un aspetto su cui non ci siamo concentrati finora, cioè che il cloud permette di ridurre i costi per le aziende. Perché? Perché uno dei modi, dei tanti modi per definire il cloud, è quello di fornire software e infrastrutture come un servizio, il famoso software as a service. Cioè non abbiamo più un pacchetto che andiamo a comprare a scaffale, diciamo così, o comunque dal nostro rivenditore, installiamo sulla macchina e dobbiamo pagare la licenza e lo utilizziamo. Abbiamo dei software, e come vedremo tra poco anche dell'hardware, diciamo così, per cui noi spendiamo per quanto consumiamo. E questo permette alle aziende di risparmiare e soprattutto di investire con molta più scalabilità e versatilità. Sì. Se fossimo molto radicali, ma giusto per fare un esempio per farci capire, e domattina fondassimo un'azienda nuova, potremmo addirittura avere pochissimi e semplicissimi computer, una buona connessione ad internet, e questo è fondamentale, ma l'abbiamo già detto, e tutto il resto sarebbe in the cloud, quindi le applicazioni, quindi i software che noi utilizziamo per fare la contabilità, per gestire i clienti, eccetera eccetera, potrebbero tranquillamente essere pagati con un abbonamento mensile e non avere quasi nulla. Ad esempio, se dovessimo cambiare sede, lo potremmo fare in una mezza giornata. Assolutamente, con vantaggi incredibili. Abbiamo detto del fatto che la licenza la paghiamo per consumo, ma anche tanti altri vantaggi. Un altro esempio: tutti gli aggiornamenti del software vengono effettuati direttamente dal fornitore di servizi. Quindi non mi devo neanche preoccupare di aggiornare il software. Io so che nel momento in cui accendo il computer e utilizzo l'applicazione che è sul cloud, sto già utilizzando la versione più aggiornata. Un buon esempio di questo, che non c'entra solo con le aziende ma c'entra con tutti, è Chrome, il browser di Google, di cui voi non vedete mai una schermata che vi dice è disponibile il nuovo aggiornamento, perché Chrome ci pensa da solo. Chrome è sempre aggiornato, perché nel momento in cui c'è una nuova versione Google si occupa di aggiornare il browser, quindi non vedete mai il messaggino è disponibile una nuova versione, avrete sempre l'ultima. Sì. Questo vale per i software anche per le aziende. Si riduce costo dal punto di vista anche della manutenzione, del personale. Perché? Perché comunque tutta la struttura dell'IT, della gestione IT, viene comunque data come parte del pacchetto dal provider. Quindi tutti questi sono riduzioni di costi. E poi la mobilità e la collaborazione di cui già parlavamo. Ecco. A questo punto ti giro una serie, non dico proprio un fiume di domande, però nel corso degli ultimi mesi molti ascoltatori, tutte le volte che abbiamo parlato di servizi, di novità legate al cloud computing, puntualmente ci scrivevano, a ragione, naturalmente a ragion veduta, ma tutto ciò che sta capitando, siamo sicuri che sia affidabile? Se io trasferisco i miei dati, tu hai accennato all'inizio, insomma, che è presumibile che queste grandi società abbiano sistemi molto, molto sicuri e performanti, però tutto ciò che sta accadendo ci garantisce che ci sia un grado di affidabilità anche in termini di privacy, perché naturalmente un conto è se le foto ce l'ho in casa, un conto è se le affido a qualche cosa che si trova in rete, tra l'altro di cui io non so nemmeno la localizzazione. Certo, questi sono dubbi legittimi e dobbiamo comunque ricordare che da molti punti di vista stiamo parlando comunque di tecnologie, di un mercato che si sta ancora evolvendo e in alcuni casi anche la legislazione si sta adeguando a queste nuove tecnologie. Diciamo che dal punto di vista della affidabilità e della disponibilità, cioè di quanto i nostri dati sono sicuri, cioè sono conservati e non vanno persi, e del fatto che noi possiamo accedere in qualsiasi momento ai nostri dati, quasi tutti le aziende fornitrici di servizi e soprattutto quelli che forniscono servizi professionali, quindi a pagamento, danno delle garanzie. Faccio un esempio di Amazon, che è uno dei principali attori in questo mercato, col suo servizio S3, che è un servizio di storage sul cloud abbastanza famoso, che fornisce garanzie di affidabilità e disponibilità pari al 99,99%, che vuol dire che al 99,99% del tempo io posso accedere ai miei dati e la percentuale del 99,99% è quella che mi garantisce che io, i dati sono conservati con cura sui server. Pagando, quindi salendo di grado di servizio, si può raggiungere addirittura un indice di affidabilità a 9 cifre decimali, quindi 99,99 esattamente, di possibilità, cioè di garanzia che i dati non subiscano delle perdite. Chiaramente stiamo parlando comunque di un rischio che c'è, come non per prendere le parti dei fornitori di servizi cloud, comunque tante problematiche di sicurezza sono problematiche che sono legate anche al mondo dell'offline, cioè molta gente si spaventa e dice sì, ma se perdo i dati e poi magari si dimentica la chiavetta USB con il bilancio della società al bar, no? Sì, quindi ci sono delle problematiche di sicurezza che comunque vanno affrontate, questo è fuori questione. Ci tengo a dire anche un'altra cosa, oltre al discorso che stiamo in divenire, c'è anche un approccio cauto per le aziende che è quello, senza entrare troppo nel tecnico, del cloud ibrido, che vuol dire appoggiarsi in parte ai servizi online, ma in parte magari le informazioni più sensibili conservarle anche in locale, magari con una copia crittografata in modo opportuno online e una copia residente in locale, in modo che le due copie fanno un pochettino da backup l'una dell'altra. Abbiamo accennato a questo tema, quello della sicurezza, che forse è uno dei principali temi di cui si sta dibattendo molto quando si parla di cloud computing, ma naturalmente, ripeto, abbiamo solo accennato, poi per ricordare che esiste questo tema molto importante, poi ognuno approfondisce come, quanto vuole, desidera, quanto deve in base anche alla propria professione. Potremmo parlare per moltissime ore di cloud computing perché citando ogni tassello si aprono mille strade, come ad esempio quella, non l'abbiamo ancora citata, ma forse è importante ricordarla e anche in questo caso fare un accenno al tema della virtualizzazione, che è una delle cose più belle e divertenti che il software ci ha fatto vedere negli ultimi anni, anche perché rende tutto molto più flessibile. È però una cosa un po' complicata da raccontare, forse, Simone. Sì, è un po' complicata. È interessante citarla perché, innanzitutto, perché a volte si fa confusione tra virtualizzazione e cloud. Sì. Sono due cose diverse. Sì. La virtualizzazione di fatto è un processo per cui si genera una macchina che dovrebbe essere hardware, quindi un vero e proprio computer, server o workstation, ma la si genera all'interno di un ambito software, quindi una macchina reale ospita virtualmente una o, nella maggior parte dei casi, più macchine virtuali. Perché la virtualizzazione è importante con il cloud? Perché consente, noi abbiamo detto, virtualizziamo le applicazioni, virtualizziamo il sistema operativo, mettiamoli sul cloud, si possono virtualizzare anche le macchine. E qua, mi spiace, cito ancora Amazon con un altro servizio, si chiama EC2, vuol dire Elastic Computer, in cui Amazon ti dice, io non ti do solo lo storage, ti do proprio le macchine, fisicamente tu accedi in remoto a delle macchine con tanto di sistema operativo e tu ci puoi fare quello che vuoi. Cioè a dei computer. A dei computer veri e propri. Sì. Perché sono importanti queste cose? Per la riduzione dei costi. Esempio, sono una ditta, un'azienda, che tipicamente utilizza dei server dimensionati in un certo modo perché non mi serve tantissima potenza di calcolo. Poi a un certo punto ho un'esigenza improvvisa di un picco di necessità di potenza di elaborazione, io affitto, chiamiamo così, la macchina per 6 mesi, la pago proprio in base alla potenza che voglio su questa macchina. Cioè posso addirittura dire, voglio una macchina, cioè voglio un computer con queste caratteristiche. Assolutamente. E visto che questo computer è un computer virtuale che viene creato in the cloud, la cosa è molto flessibile. Assolutamente, quindi ho bisogno di potenza di calcolo perché devo fare un calcolo particolare per una durata limitata nel tempo, posso pagare questa licenza, posso pagare questo servizio e quando ho finito di fare il mio lavoro non ho più il costo perché è finito il servizio e non pago più niente. Sì, nella nostra famosa azienda potremmo avere la richiesta di un cliente che ci domanda, potete calcolarmi questa cosa, potete progettarmi questa cosa? Noi in una mezza giornata prendiamo le macchine virtuali, cosa che invece nel mondo reale sarebbe molto molto difficile. Potremmo farlo addirittura anche forse al sabato e alla domenica. Assolutamente, sì. Il vantaggio è proprio la versatilità, la flessibilità, che poi si traduce anche in risparmio per le aziende. Certo. Bene, io ringrazio Simone Zanardi per essere stato con noi in questa puntata, che spero abbia chiarito in alcuni casi alcuni concetti di base, ma anche dato il là per poi approfondire su internet, e sicuramente di approfondimenti, di modi per approfondire ce ne sono parecchi e molti. Grazie Simone, buon lavoro, a presto. Ciao Enrico. Ed è tutto per questa puntata di 2024, la prima della versione estiva. Grazie a Simone Zanardi per essere stato con noi. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile tra poco attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online, naturalmente nella sezione di radio24.it dedicata al podcast. Non dimenticate che ci trovate anche su Facebook, quindi potete cercare il nostro programma digitando appunto 2024. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre il sabato a partire dalle 15:30. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024.